Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Oggi si parte da una multa che la Commissione europea ha inflitto per quasi 500 milioni di euro a 3 banche per avere partecipato a un'intesa illegale sui prodotti derivati. Sentiamo Beda Romano che ci racconta che cosa è accaduto. Buongiorno Beda. La Commissione europea ha deciso di comminare una multa di 485 milioni di euro a 3 banche, Crédit Agricole, HSBC e JP Morgan Chase, per avere manipolato 2 tassi di interesse piuttosto importanti sul sistema finanziario internazionale, l'Euribor e il Libor. In realtà queste 3 banche sono state accusate di avere manipolato il tasso di interesse per influenzare i relativi derivati e ottenere dei guadagni illeciti. La Commissione è intervenuta perché naturalmente il suo compito è quello di garantire la libera concorrenza sul mercato. E in questa circostanza, peraltro, l'inchiesta ha messo in luce il comportamento illecito di queste banche su dei tassi di interesse utilizzati tutti i giorni nell'economia reale, perché questi tassi di interesse sono utilizzati per parametrare i mutui o i prestiti. La multa è di 485 milioni di euro e giunge dopo che altre 4 banche avevano ammesso la loro responsabilità nel 2013 e avevano accettato di pagare una multa, in quel caso di 1,7 miliardi di euro. Grazie a Beda Romano, e adesso ci spostiamo invece tra Londra e Bruxelles, dove continua naturalmente la trattativa per la Brexit. L'accelerazione di Bruxelles sorprende Londra e questa è la sensazione che emerge di riflesso dal primo pubblico intervento sulla Brexit del capo negoziatore UE Michel Barnier, esplicito nell'indicare ottobre 2018 come punto finale della trattativa. Per Londra, che intende partire con la procedura di recesso nel marzo 2017, sono 6 mesi in meno rispetto ai 2 anni previsti. La divergenza, che per ora non ha creato un'aperta polemica, ma potrebbe generarla in futuro, nasce dalla ratifica dell'accordo. Per Barnier, i 6 mesi successivi all'ottobre 2018 dovranno infatti servire per la ratifica dell'intesa con Londra da parte dei 27 governi UE. La Gran Bretagna considerava i 2 anni come tempo per la trattativa. Downing Street si è limitata a dire di non aver mai saputo di una tempistica del genere. La signora Premier, Theresa May, ha invece ribadito che aspira a un accordo a tinte bianche, rosse e blu, come i colori dell'Union Jack, ovvero favorevole agli interessi di Londra, che, ha detto, intende continuare a operare e commerciare con il mercato interno. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Grazie anche a Leonardo Maisano, e adesso un paio di notizie. Una ci porta in Bulgaria. Dall'inizio dell'anno, al confine bulgaro con la Turchia, sono stati fermati, nel tentativo di entrare nello spazio dell'Unione Europea, 34.000 migranti. La settimana prossima 50 afghani saranno espulsi dal paese, mentre altri 300 hanno dichiarato di voler tornare in patria volontariamente. Il vice ministro dell'interno bulgaro, ovviamente, Filip Guniev, citato dalla stampa di Sofia, ha detto che dal 2013 hanno attraversato il suo paese circa 60.000 migranti. Un'ultima notizia: Antonio Tajani, Forza Italia, attualmente vicepresidente dell'Europarlamento, ha presentato al PPE, il Partito Popolare Europeo, la sua candidatura per la presidenza del Parlamento Europeo. Insomma, si annuncia anche una sfida nei prossimi giorni tra Gianni Pittella, dunque candidato per il Partito Democratico del PSE, e il suo collega, in questo caso avversario anche politicamente, Antonio Tajani di Forza Italia. Con questo è tutto, l'appuntamento con l'Europa naturalmente a domani. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.